Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Vigilia di Slovenia-Italia che è in programma domani sera a Lubiana ed è valida per la qualificazione agli europei. Stamane ultima sessione di allenamento a Coverciano con, leggo da notizie d'agenzia, con il ripasso soprattutto di addestramenti tattici sulle situazioni di gioco da fermo, in particolare quelle difensive sulla linea 4. Maggio, Bonucci, Chiellini e Balzaretti, lo credo, perché domani sera la partita di Lubiana con la Slovenia non è affatto facile. È confermata l'indicazione del modulo con Cassano e Pazzini di punta e Mauri a sostegno. Nel pomeriggio la squadra volerà a Lubiana, dove stasera probabilmente sosterrà, compatibilmente con l'orario, un'altra leggera seduta per familiarizzare con il campo, ma questa è la routine in fondo di ogni vigilia. Scrive Daniele da Bologna, dice: per caso domenica non avete impegni? Beh, questo striscione che ieri sera indubbiamente ha fatto è un bello striscione, bellissimo, perché è stato esposto all'Olimpico di Torino, dove si è giocata questa partita benefica con incasso a favore della ricerca contro la SLA, partita benefica in cui sia juventini che torinisti si sono tolti la voglia, come dire, di lustrarsi gli occhi e di pensare ai bei tempi andati con gli Zidane da una parte, addirittura Leo Junior dall'altra, insomma con i campioni che una volta popolavano quelle due squadre. C'è una voce di Zidane sul momento non facilissimo che la Juventus attraversa oggi. Sentiamo. Non mi piace vedere quello che è la Juve, però io penso che col tempo tornerà come prima. L'unico è che ha cambiato un po' le cose e ci vuole tempo. Speriamo bene, perché la Juve deve tornare come sempre, perché quando sei della Juve lo sei per sé. E speriamo bene, sì, caro Zidane, anche perché in una serata come quella, in una serata appunto in cui non solo il pubblico si è emozionato ma si è anche divertito, in cui, ripeto, quello striscione ha fatto un po' da cornice, forse la leitmotiv alla serata stessa, si è trovato il modo ugualmente, e questa è un'agenzia appena arrivata, di arrestare un tifoso per rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e altri 7 di denunciarli. Questo per dire che non c'è ormai occasione in cui si riesca a sfuggire a questa drammatica legge, no? Dell'ultra che deve dominare, deve rubare la scena ad ogni costo. La notizia più bella di questi giorni, a parer mio, arriva dal Qatar. Ed è la seguente, vi pregherei di ascoltarla con la massima attenzione, datata Dubai, e recita così: una nuvola artificiale, meccanica, da spostare col telecomando per assicurare un'ombra compatta sugli stadi dove si giocheranno le partite di calcio dei mondiali 2022. Questo è il progetto presentato da Saud Abdul Ghani, capo dipartimento di ingegneria meccanica dell'Università del Qatar, realizzato in collaborazione con il Parco per la Scienza e la Tecnologia. La nuvola, ha spiegato il professore, è realizzata in leggerissima fibra di carbonio ed è azionata da 4 motori alimentati a energia solare. Il costo della nuvola è al momento di $500.000, ma è un costo destinato ad abbassarsi. Pensato inizialmente come accessorio per facilitare il compito dei calciatori impegnati nella prima Coppa del Mondo del prossimo decennio, le nuvole artificiali potranno essere impiegate anche poi per ombreggiare spiagge o parcheggi ed essere controllate attraverso un semplice telefono cellulare. Quindi questa sarà la prima, quella del 2022, sarà la prima edizione di un mondiale ombreggiato in maniera artificiale, che è l'unica condizione per giocare a Dubai, per giocare in Qatar, dove la temperatura estiva, e cioè all'epoca in cui si svolgeranno i mondiali, sfiora costantemente i 50 gradi, che come è noto è una temperatura ideale per il gioco del calcio. La vigilia azzurra, Balzaretti dovrebbe essere titolare, sentiamolo. la squadra che il mister sta plasmando, e quindi credo che siamo sulla strada giusta per fare bene. Naturalmente c'è stato questo ricambio e naturalmente il mister sta puntando su tanti giocatori, però sicuramente una squadra che invece secondo me ha tantissima qualità, e io ne ho due testimonianze di due giocatori che sono Bacinovic e Ilicic, che sono molto forti e stanno facendo molto bene con noi, quindi sicuramente è una partita molto difficile, squadra molto forte, poi da loro insomma un campo molto caldo. Nel frattempo stasera tocca all'under 21 di Ciro Ferrara, che sentiamo adesso. Se tutta quest'under o questo gruppo fosse la squadra o comunque il gruppo che può far parte di quella squadra, io ne sarei chiaramente felice, perché loro giocherebbero con continuità. Ecco, l'unica cosa che potrei aggiungere, mi sembra tra le righe è stato scritto che magari non farebbe classifica. Ecco, poiché l'obiettivo è proprio quello di farli diventare grandi, quindi di confrontarsi con quella che è la nostra realtà, che è poi il risultato, e allora secondo me su quello avrei qualche dubbio, nel senso che dovrebbero partecipare realmente al campionato, perché altrimenti non avrebbe senso. Subito dopo l'intervallo ci tornerà a trovare Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Gli rivolgerò una domanda che secondo me vale la pena di essere ascoltata, ma non tanto la domanda quanto la risposta, e da lì partirà una messa a punto sugli argomenti economico-finanziari che sono continuamente di attualità intorno al mondo del pallone, dopo aver sentito come va sulle strade. C'è tutta una serie di ascoltatori che si è scatenata sulla nuvola, come era inevitabile, e quindi Dante da Busto ricorda la nuvola di Fantozzi, Roberto da Arezzo ricorda la stessissima cosa, qualcuno propone di pagare a Fantozzi i diritti d'autore per questa idea, eccetera, Gaetano da Lucca, finché ce n'è. In effetti la notizia è esilarante non pochino, però è molto seria invece, perché quelli fanno davvero sul serio. Bentornato a Marco Bellinazzo. Buongiorno. Allora, la domanda è questa. Partendo da fatti di cronaca anche molto gravi, come la scorsa settimana è accaduta alla Sanremese. Oddio, è accaduto in un'area in cui il Consiglio Comunale di Ventimiglia, insomma, è un'area in cui ci sono state infiltrazioni serie, ma di malavita. Ma leggere che in una città come Sanremo, e oltretutto in una categoria così bassa, no, del nostro calcio, perché stiamo parlando di Lega Pro 2, insomma, quella che una volta era la C2, è leggere che ci sono stati... Sono accaduti fatti così gravi che giocatori sono stati minacciati a mano armata perché rinunciassero al loro contratto, o perché insomma simpatiche cose di questo genere. Allora la domanda alla fine è questa: ma perché il calcio, che è sempre stato un grande richiamo per molti investitori, imprenditori, ma perché più passa il tempo e più, pur calando gli incassi, pur calando il pubblico, pur essendoci parametri sempre più negativi, continua a essere il miele per mosche sempre più pericolose e velenose? È una bella domanda, quando ci siamo parlati ieri si può provare. Per ragionare sulla possibilità di dare una risposta che sia poi credibile, utile a chi ci ascolta, appunto ci siamo a nostra volta interrogati sui tanti aspetti complicati di questa domanda e delle vicende che ruotano ormai intorno al calcio. Ci sono tanti modi per rispondere a questo interrogativo. Io partirei da quello più ufficiale, che risale a un annetto fa, quindi non andiamo tanto indietro nel tempo, ed è un rapporto dell'OCSE, quindi un organismo che assolutamente credibile, affidabile, che denunciava un rischio infiltrazione nel calcio, quindi non solo in quello italiano ma in quello europeo, un rischio criminalità, e riteneva appunto il calcio come lo sport più poroso da questo punto di vista, quello nel quale più facilmente, vuoi per la visibilità, vuoi per gli scarsi controlli, vuoi per diciamo il grande giro d'affari che c'è intorno, come dicevo, il mondo sportivo più aperto a possibili infiltrazioni e a possibili fenomeni di riciclaggio. Peraltro, giusto per farci riconoscere, questo rapporto si basava e prendeva ad esempio un caso eclatante che era accaduto in Italia qualche anno prima, il caso Lazio, dove una cordata capeggiata da un grande campione del passato della Lazio come Chinaglia aveva appunto tentato di fare concorrenza allo Tito nell'acquisizione del club capitolino. Già la presentazione all'epoca, parliamo del 2006, di questa diciamo proposta di acquisto era strana, perché c'era uno strano giro di affari di società che dall'Ungheria o da altri paesi dell'est europeo si collegavano alla Svizzera. Insomma, la procura di Roma ha indagato perché qualcosa di strano c'era, non tornava, e si è scoperto che dietro questo giro d'affari c'erano i capitali della criminalità organizzata campana, dei casalesi, e c'è un processo in corso. Ora insomma non entriamo nel dettaglio della vicenda, no, ma è sintomatica di come tra l'altro proprio l'Italia sia stata indicata come il paese, il sistema calcio più infiltrabile, l'hai detto, più a rischio, più a rischio da questo punto di poroso vista. Poroso mi sembra un aggettivo perfetto, no? Perché un'altra vicenda sempre della capitale di giusto 2 anni fa, quella di Flick e Fioranelli, che non magari con capitali della criminalità organizzata, ma sempre per riciclaggio, come hanno tentato di acquisire la Roma, speculando peraltro sul titolo, e quindi cercando di guadagnare dal rialzo del titolo che veniva determinato da queste voci di interessamento al club, e anche loro risiedono ora in qualche galera, e anche lì c'è un procedimento in corso, certo, per appurare quello che c'era. Questo per parlare, come dire, dei massimi livelli dove, come dire, la trasparenza dovrebbe essere più elevata e i controlli maggiori. È chiaro che più scendiamo di categoria più la domanda prende senso, perché il giro d'affari che c'è intorno ai club di Serie A è importante, lo abbiamo ricordato più volte, diventa un po' meno il giro d'affari economico dei piccoli club di Lega Pro. E allora ci si chiede appunto perché un imprenditore, sia pure locale, debba investire in una società quando il ritorno economico è basso. È così basso. E la risposta per l'appunto è quella. E allora, da una parte, insomma, le domande che seguono, e che qualcuno già comincia a fare anche per iscritto, sono tante, però il dato di partenza, dire che sia inquietante, è davvero poco. Tu adesso hai fatto cenno, per esempio, agli incassi e all'effettivo business, no? Che dovrebbe, o che forse non dovrebbe, muovere un imprenditore a. Allora, se parliamo di media spettatori, questi sono dati che Franco Piantarini ha ricavato da quest'anno, la media spettatori tra Lega Pro 1 e Lega Pro 2, e cioè C1 C2 per chi è rimasto come me un pochino in arretrato, sono 1413 a partita. Si passa dagli 11.000 e fischi del Verona ai 95 del Renate. Renate è una squadra nell'alto milanese che ha una media di 95 spettatori paganti a domenica. La media degli incassi è di 21.400 euro in prima divisione ed è di 4.757 euro in seconda divisione. Ci sono ancora delle tasse poi da pagare su queste cose. Quindi questo, mi pare che questi numeri abbastanza avvilenti rafforzino e corroborino questa tesi, e cioè dove sarà la sua convenienza, come dicono i genovesi? Io stamattina, per documentarmi, ho fatto una chiacchierata con il presidente della Lega Pro, Macalli. Gli ho chiesto alcune cose, ma a questa domanda devo dire che anche lui ha fatto fatica a rispondere. Chiaramente c'è una visione romantica, partiamo dal primo step. Un imprenditore che è noto su un certo territorio, che da quel territorio magari ha avuto grandi vantaggi, è riuscito a farsi conoscere, ad affermare una certa azienda e quindi in qualche modo fa da mecenate e vuole restituire alla collettività un certo benessere, no? E quindi investe su una certa squadra, qui viene fuori il campanile italiano, certo. E quindi la volontà di affermare sportivamente un comune, una signoria più rispetto alle altre. Questa è una visione, voglio dire, molto bella, idilliaca, però... forse in qualche caso c'è ancora, ma forse si è fermata agli anni 70, agli anni 60. In larga maggioranza sì, si è fermata lì. Oggi allora perché si investe nella Lega Pro? Si investe perché molto probabilmente c'è l'esigenza di avere un dividendo sociale, un dividendo politico, un dividendo economico che non è quello legato strettamente agli incassi o ai guadagni che ti può assicurare quella squadra, ma evidentemente in molti casi c'è l'aspettativa perlomeno di acquisire una posizione, un vantaggio d'immagine molto elevato, di essere in certi casi molto più importante del sindaco, no? Nelle piccole realtà il patron della squadra di calcio è più importante magari del sindaco, delle autorità locali, e dunque di avere anche un potere contrattuale molto più elevato sia nei confronti magari degli enti pubblici del territorio che nei confronti delle altre aziende, proprio perché si ha una posizione di privilegio. Quindi questo ragionamento può essere come dire la visuale economica che supera quella romantica, ma sempre ancora nell'alveo, ma restiamo appunto nell'ottica della legittimità. Chiaramente poi, come ricordato dal caso della Sanremese, cioè, vicende poco chiare per esempio a Potenza, insomma, e da miriadi di altri casi ci sono casi molto complessi e non diciamo interpretabili in maniera univoca, ma che fanno tutti riferimento a fenomeni comunque di illegittimi comportamenti, e quindi questi ci portano alla terza lettura, alla terza possibile risposta, cioè la squadra, la piccola squadra di calcio può essere usata per diciamo, come dire, muoversi nell'ottica, se non del reimpiego di capitali provenienti da affari illeciti, perlomeno diciamo da situazioni non poco chiare, quindi utilizzarli nell'ambito di una squadra, vista la celebrità che quella squadra può avere anche nel contesto locale, significa poterne in qualche modo occultare la provenienza, magari, ripeto, non del tutto illecita, però magari agli occhi del fisco può essere certo. Maggiormente celato quel mondo, tant'è vero che negli ultimi anni l'interesse e l'attenzione anche dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sulle piccole realtà sportive e calcistiche, anche quelle dilettantistiche che poi dilettantistiche non sono, è sempre più dilettantismo non ce n'è più, ecco, nel è sempre più elevata, e dunque ecco una possibile ulteriore spiegazione. A grandi livelli poi, se mi concede altri 30 secondi, ci sono poi anche vantaggi fiscali. Ora risaliamo ai vertici del calcio italiano, e lì per esempio, e premessa, è tutto lecito, ovviamente parliamo qui di soluzioni giuridicamente concesse, c'è la possibilità per esempio per i grandi club di fare il consolidato fiscale, quindi tutta una serie di perdite, di diluirle nei conti del gruppo e quindi di pagare meno imposte. È una tecnica che vale per il calcio come vale per gli altri settori in cui esiste questa possibilità, ecco. Cioè, forse non so se siamo stati molto chiari, però abbiamo cercato di fornire delle spiegazioni. Il quadro è delineato, poi ci sono altri argomenti, ma ci sono ancora anche un paio di domande proprio su questo tema che gli ascoltatori stessi hanno scritto nel frattempo con i loro sms al 349-238-6666. Noi facciamo l'intervallo per sentire come va sui mercati. È anche un problema di numero, mi rivolgo a Marco Bellinazzo, un numero di società presenti in Lega Pro 1 e 2, perché il calcio, che in teoria sarebbe semiprofessionistico questo, ma che in realtà è professionistico a tutti gli effetti, non può più reggere da anni quantità così, no? E i due discorsi si legano in maniera assolutamente precisa, in quanto la prima causa di infiltrazioni nel mondo del calcio è collegata alla crisi finanziaria dei club, come accade nel resto dell'economia non sportiva. È chiaro che la crisi e la posizione di indebitamento di certi club fa sì che ci si aggrappi poi a tutto quando il sistema bancario ovviamente non offre opportuni aiuti, ci si rivolge a quello che li offre in maniera più spicciola e tempestiva, per cui spesso le società finiscono in mani sbagliate. Proprio per questo la Lega Pro e il presidente Macalli sta cercando di portare avanti un progetto di riforma che punta alla riduzione del numero dei club. Sì. Ora i club che giocano nelle varie serie della Lega Pro sono 85, dovrebbero ritornare a 90 il prossimo campionato per effetto di promozioni e ripescaggi che appunto la Lega Pro vorrebbe bloccare. Il progetto a cui sta lavorando Macalli, che però incontra molti molti ostacoli, è quello di scendere addirittura a 60 squadre. In particolare l'AIC, l'Associazione Italiana dei Calciatori, è contro, perché ovviamente questo porterebbe una forte riduzione dei posti di lavoro, anche se sembra strano dire posti di lavoro quando si parla di calcio, ma è questo. Ragionano in quell'ottica, in fondo legittimamente. E allora si sta cercando un compromesso intorno a 72 squadre, si sta lavorando a questo, ma di fatto Macalli, con cui ho parlato stamattina, ritiene che al di là delle riforme, quindi delle norme calate dall'alto, è possibile che la prossima estate ci sia una selezione naturale dei club e che siano veramente pochi quelli che riusciranno a pagare le iscrizioni e a essere in regola con i conti economici, e quindi si potrebbe arrivare davvero a 60 squadre, ma appunto per effetto della selezione naturale. Sì, che detta così è in realtà è un po' crudele come selezione naturale, però è inevitabile, mi sembra che sia già negli atti, cioè tutte queste squadre che hanno subito 81 punti di penalizzazione, mi sembra, in totale tra Lega Pro A e B 1 e 2, sono tutti club che non riescono a far fronte evidentemente non arriveranno altri punti di penalizzazione in questa stagione, semplicemente perché peseranno sul prossimo campionato quelli applicati in questa fase. È chiaro che non si può andare avanti con se i numeri e i conti che abbiamo ricordato prima sono quelli, non si può andare avanti con questo numero di squadre. E vabbè, e fin qua siamo arrivati. Certo, situazione non rosea in questo caso. È rosea la situazione alla Roma, ti domando, visto che stiamo parlando di argomenti economico-finanziari, e cioè questo nuovo proprietario è rassicurante e fino a che punto? Beh, la trattativa è alla fine, per lunedì è atteso Di Benedetto in Italia, dovrebbero essere poi svolte le ultime formalità, ma ormai ci siamo. Bene però che i tifosi della Roma sappiano, ma immagino che ci abbiano già riflettuto, che questo non è il punto di conclusione della partita, ma è soltanto all'inizio, è giusto il fischio d'inizio, e da lì in poi certo si può iniziare un progetto serio di ristrutturazione del club, anche dal punto di vista proprio sportivo e delle competizioni, con acquisti mirati. Insomma, il progetto pare sia serio, pare, perché nei suoi contenuti non è stato ancora sviscerato completamente. Immagino che lo sarà quando verrà presentato il nuovo presidente della Roma, per cui ci resta da attendere una settimana, certo. E sapremo come e quale sarà il futuro della Roma. Ci sono un paio di ascoltatori, no, in realtà sono tanti, ma un paio alla volta, che vogliono intervenire su questi argomenti. Paolo dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, io volevo intervenire sul concetto delle infiltrazioni mafiose. Loro ultimo sicuramente sono le calcio scommesse, perché non basta leggere la Gazzetta di due giorni fa, che cui io mi sono anche trovato nella situazione, dove l'Atalanta la quota dell'over 2,5 invece di calare su una piattaforma di scommesse stava continuando a crescere malgrado la partita fosse sullo 0-0. Quindi una cosa molto anomala, e infatti se già mossa anche la federazione gioco calcio e ha messo sotto inchiesta questa determinata partita, e stiamo parlando di una partita di Serie B, non è anche tanto bassa come categoria. e quindi anche il calcio scommesse secondo me ha la sua importanza. È un altro discreto fattore di inquinamento. Perfettamente Marco. Ragione, tanto è vero che il neoeletto presidente Michel Platini ha posto proprio la lotta contro il calcio scommesse al primo punto insieme al fair play finanziario come i nuovi pilastri del calcio europeo e internazionale e ovviamente di quello relativo ai singoli campionati nazionali, non solo a quelli di vertice, perché i fenomeni ci sono forse più devastanti nell'est Europa, ci sono tantissime partite lì sotto inchiesta, ma anche in Italia sono alcuni, almeno una decina i casi di partite sospette tra i vari livelli su cui appunto un andamento anomalo delle scommesse ha fatto concentrare ora l'attenzione anche degli organi di giustizia sportiva. Claudio Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io volevo andare un po' contro corrente e dire che volevo fare complimenti a Della Valle, perché nonostante le contestazioni, io ho detto stamattina che la Fiorentina è prima nei bilanci, cioè come attivi, è una fra le prime in Europa, e credo che al di là di tutto i giocatori passano e le società restano, e il bilancio oggi ci segnate che è basilare. Certo, grazie Claudio. Beh, la Fiorentina è messa abbastanza bene, insomma, poi quei numeri a cui fa riferimento si riferiscono al bilancio 2009, quello 2010 non è altrettanto positivo, ma indubbiamente i Della Valle hanno fatto molto per Firenze per ridare un equilibrio economico e finanziario al club, e anche magari rinunciando a qualche campione o rinunciando a qualche acquisto, non sempre la tifoseria ha capito, ma ci sono certo. Evidentemente anche tifosi che colgono ormai gli aspetti importanti e positivi di un equilibrio di bilancio. Meno male. Alessandro, Roma. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo porre l'attenzione sull'aspetto fiscale, che sia una questione molto importante, specie per le piccole società dilettantistiche e non solo del calcio. È indubbio, probabilmente il suo ospite lo saprà, che c'è un problema di false fatturazioni. False fatturazioni, dove vuol dire che a fronte di, io do delle cifre così, a fronte di 300 milioni, supponiamo, di sponsorizzazione, c'è, quando va bene, solo 100 milioni di esborso, 200 milioni che invece restano a formare dei fondi, diciamo, particolari per le società che sponsorizzano. E questo è un fenomeno molto diffuso in tutte le società sportive di tutti gli sport, e che secondo me prima o poi la Guardia di Finanza, quando ci vorrà fare un giretto, probabilmente troverà cose molto, molto particolari e che muovono movimenti di affari, movimenti di denaro elevatissimi. Sì, lo abbiamo detto Gigi prima, che c'è un'attenzione l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza su questi fenomeni e altri, insomma, accentuata negli ultimi anni, che in passato è stato un po' un ben godi l'utilizzo di queste false sponsorizzazioni, false fatture. Chiaramente dove c'è un grande giro d'affari è chiaro che si possono innestare questi fenomeni illeciti, insomma. Michele, Genova, sempre ancora sullo stesso argomento, mi pare di capire. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei. No, la cosa che secondo me dà molto fastidio, se non la cosa in assoluto che dà più fastidio agli sportivi, agli appassionati di calcio, è la differenza di metro che c'è tra società con bilanci non a posto e società, nel senso che vengono penalizzate, cancellate, punite determinate società e altre no. Roma, Lazio, Spalma Debiti continuano ad avere grandi campioni con una società di bilancio deficitaria da decenni, mentre altre squadre devono limitare bilanci, ingaggi, giocatori, rinunciare, penalizzazioni, se non addirittura cancellazioni o fallimenti. Quindi le regole che valgano per tutti. Sarebbe bello, e non solo nel calcio, caro Michele, no? Che dici, Marco? Dico che dal prossimo luglio cambierà tutto, sarà un processo graduale, ma quello voluto da Platini è un processo appunto che non prevede un ritorno al passato, perché Platini era stato eletto con 3 o 4 voti nella prima votazione 4 anni fa, è stato rieletto per acclamazione, quindi vuol dire che c'è un grosso supporto, e Platini su questo si gioca la presidenza della FIFA. Ci sono stati in passato dei trattamenti di favore, possono essere letti in tanti modi, il riferimento alla Lazio, al concordato che ottenne Lotito di oltre 100 milioni di tasse non pagate, insomma, che sta restituendo, fu sicuramente un trattamento di favore per la Lazio. È anche vero però che intanto quelle tasse che non sarebbero state più recuperate qualora la Lazio fosse fallita, oggi piano il club li sta pagando, insomma. A rate di 23 anni, no? Spalmate sui 23 anni, ma almeno a casa ritornano. Ultimo intervallo di oggi, strade e autostrade. La rubrica di Nicola Filippone, il 24 marzo di un certo anno. Sembra ieri. 24 marzo 1991. Diego Armando Maradona gioca la sua ultima partita con la maglia del Napoli. La formazione di Bigon perde malamente a Marassi contro la Sampdoria di Boscov in odore di scudetto. Finisce 4-1 con reti di Cereso, Lombardo e doppietta di Vialli per i blucerchiati, mentre il gol della bandiera napoletano lo realizza proprio Maradona su calcio di rigore. Curioso che anche la prima delle sue 81 marcature in Serie A il Pibe d'Oro l'avesse segnata proprio la Sampdoria, e anche in quel caso sul rigore, il 23 settembre 1984. Quattro giorni dopo il 4-1 di Genova, viene ufficializzata la clamorosa notizia della positività di Maradona alla cocaina nella partita contro il Bari. Subito, il capitano del Napoli viene sospeso in via cautelare, in seguito gli verrà comminata una squalifica di 15 mesi, e torna immediatamente in Argentina. È l'epilogo triste di un'avventura straordinaria. Che avrete a maggior ragione ricavato, no? Dalla sottolineatura del tono di Nicola Filippone, giustamente anche qua in studio si è sparso un po' di gelo, per la verità, al ricordo di questo triste anniversario, vero Marco? Un colpo a tradimento, un colpo al cuore a tradimento. Dunque noi tra poco torniamo agli ascoltatori, perché mi segnalano dalla regia, sono davvero tanti, vogliono intervenire su questi argomenti, allora noi li facciamo intervenire. Mi piaceva soltanto, a proposito di date, ricordare che oggi 24 marzo il Mantova compie 100 anni. E dato che si tratta di una società tuttora attiva, certo, che ha avuto lo scorso anno le disavventure di cui parlavamo prima, perché adesso fino all'anno scorso era in Serie B, presidente un allegrone, brillante, eccetera, poi insomma si è finito in una certa maniera, il Mantova è in Serie D, anche se adesso è prima in classifica e quindi sta certamente provando a risalire. C'è una mostra a Palazzo Te, quindi in un luogo storico mantovano, una mostra dedicata a questa squadra che ha avuto il suo periodo d'oro negli anni 60 e i primi 70 in Serie A, e ha cresciuto gente come Dino Zoff, come Schnellinger, come Sormani, senza dimenticare lo storico capitano Gustavo Giagnoni. Prima di questi due tre o quanti saranno ascoltatori, io so che c'è un argomento che ti sta a cuore, Marco, in parallelo alle vicende di casa nostra. Più che altro una curiosità: in questi giorni abbiamo letto che nello sport professionistico americano, addirittura nel basket, nel football, quelli più ricchi, si potrebbe avere una serrata da parte dei proprietari, quindi sì, nei confronti, quindi per protesta nei confronti degli atleti che secondo loro guadagnano troppo. Si sta anche lì discutendo di accordo collettivo, di contratto collettivo. A proposito, quello italiano non si sa più che fine ha fatto. Fermi, con calma, lasciateli lavorare. E tra l'altro, appunto, si lamentano i proprietari che, appunto, gli atleti guadagnano troppo perché il monte ingaggi sarebbe superiore al 50%, intorno al 57% del fatturato dei club. Ora penso a cosa dovrebbero fare i poveri proprietari italiani, certo, che pagano oltre il 70-80% del proprio fatturato in stipendi, e minimo una serrata, ma a partire dalla prossima domenica, date le proporzioni, insomma. Certo. Certo che sì, si parla una serrata anche in Spagna, mi pare così, per inciso per la domenica del 2-3 aprile, faccio notare sì, che... Sì, per i diritti TV, anche lì c'è un po' di bagarre, non si vuole che vengano trasmesse alcune partite in chiaro, si chiede che le sintesi trasmesse nei notiziari siano pagate anziché essere gratuite, insomma vedremo, c'è anche una spaccatura tra i club, non credo che si arriverà a fermare il campionato spagnolo in ogni caso. Alberto, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Granzini, a proposito dell'argomento di cui parlavate, una considerazione piccolissima, sarà forse perché io sono un presidente di un'associazione sportiva dilettantistica di pallavolo, per cui realtà piccolissime. Noi veniamo controllati, visitati dall'Agenzia delle Entrate, abbiamo avuto un controllo pochi mesi fa, e è ridicolo pensare, ma senza polemizzare, che il mondo della pallavolo, che movimento almeno fino sicuramente a livelli della B, pochissimi soldi, cioè viene controllato, quando nel mondo del pallone invece girano camionate di soldi nel vero senso della parola, però vengono controllate queste piccole società, questo me lo dice anche il commercialista, che ogni 2x3 c'è un controllo, e forse dovrebbero sprecare le forze per altre situazioni, ecco, più che per queste piccolissime realtà di paese che fanno fare 4 ragazzine. Tutto lì. Grazie Alberto, ho l'impressione anch'io che sia così, Marco. Nulla da aggiungere, insomma, a una considerazione di questo tipo. Solo da prenderne atto, con una certa amarezza. Ancora ascoltatori, sempre su questo argomento. Andrea, Taranto, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Volevo raccontare un paio di aneddoti da bar, nel senso che ascoltavo delle conversazioni, giusto per confermare quello che veniva raccontato da voi e da qualche ascoltatore, nel senso... Quando ero giovane ricordo che il presidente, insomma, con le sponsorizzazioni, per cui si diceva mi hanno dato tot, però indietro ne tornava una parte da chi aveva sponsorizzato, perché c'era una contabilità che permetteva, insomma, di registrare in maniera molto allegra, poi con eventuali rimborsi spese fantasmagorici, insomma, un po' strani. Oppure ricordo anche ultimamente una chiacchierata da bar in cui raccontavano che di giocatori anche nelle serie minori che venivano pagati interamente in nero, quindi nel senso, purtroppo, ecco, volevo solamente lo so, Andrea, raccontare questa cosa. Io adesso poi le faccio rispondere a Marco Bellinazzo. Noto soltanto che c'è stato un tempo in Italia in cui si parlava in maniera autorevole e si viveva in maniera autorevole e credibile, e quindi da lì era nata l'espressione chiacchiere da bar. Oggi ho l'impressione che con il degrado sociale e civile, soprattutto che, e direi anche culturale, che sta vivendo il paese, le chiacchiere da bar sono nettamente rivalutate. Ho l'impressione, per esempio, che quelle che ha ascoltato lei siano di rara attendibilità. Le chiacchiere da bar dovrebbero finire direttamente in una denuncia alle autorità competenti. E chiaramente c'è stata, tra l'altro, sulle sponsorizzazioni qualche anno fa una stretta che non riguardava ovviamente soltanto il mondo del calcio, ma chiaramente anche il mondo del calcio e dello sport in generale, proprio perché al fisco erano note queste vicende truffaldine. Forse la crisi finanziaria del calcio italiano dipende, oltre che dalla crisi economica globale, anche dal fatto che tutta una serie di canali sono diventati molto più difficili da percorrere. Paolo, chiamato da Mantova. Sì, buongiorno Granzini, grazie per farmi intervenire. Volevo innanzitutto ringraziarla per aver ricordato i 100 anni del Mantova. E secondo, per dire una cosa inerente all'argomento che avete trattato oggi, che il 25% dell'attuale Mantova è di una società che si chiama Mantova United, che è un azionariato popolare di tifosi. Beh, bene. Beh, un bel segnale, soprattutto quando appunto l'iniziativa popolare è spontanea e viene coordinata bene, insomma, a giusti fini. Non so se su larga scala e a livelli superiori è possibile replicare certi esempi, certi tipi di organizzazioni. È chiaro che, insomma, ci fa piacere sapere che esistono anche di queste realtà. Marco, noi ci sentiamo, ci ritroviamo il prossimo giovedì, stavolta per fair play finanziario, stavolta anziché di calcio, diciamo di seconda fila, come è stato oggi in particolare, parleremo di calcio di primissima fila. Delle nuove Big Four del calcio italiano. Ecco, le nuove Big Four alla luce anche dei bilanci e della loro ammissibilità futura allo stesso rango, alla stessa dimensione, no? di grandi, alla luce per l'appunto del fair play finanziario. Per il momento grazie a Marco Bellinazzo, grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio.